San Pei, pescatore, grandi orecchie a sfantola, sorriso di sole, San Pei. Che sarà? Pesce, cane, spada, che sarà? È questione di momenti, abboccherà. Amica tua, una canna fatta di magia, e quell'amore una calamita, impossibile cambiare strada. Gira il mondo con i marinai, quanti mari vedrai. Siamo su Radio Onda Rossa 87.9 e abbiamo telefonato adesso a un compagno che si trova a Ponte Galeria. Sono io. Esatto, che sei tu e quindi ci volevi dare qualche informazione, qualche cosa di urgente. Onda? Sì, sei in onda. Ok. Cara Italia, cari romani, se così si può chiamare Italia. Io sono un ragazzo di 23 anni, sono detenuto dentro Ponte Galeria e ti posso dire che qui è un posto di merda, siamo animali per tutti quanti. E oggi due persone si sono impiccate, tra cui una, io ieri a mezzogiorno ho sepolto mia nonna, te lo giuro sulla tomba di mia nonna, che qui uno è morto e sono sicuro, mi gioco la testa. Italia, qui si può dire povera Italia, perché questa non è democrazia, questo è razzismo puro. Questa è una merda, questo posto è una fogna, sia per noi, sia per noi che per tutti gli altri miei compagni. Siamo stranieri, è giusto, ok, va bene, ma non dobbiamo essere trattati come animali, come merde. Non siamo merde, ma siamo umani. È normale che poi uno, le guardie, le forze dell'ordine ti portano all'esasperazione, a fare casino, a bruciare materassi, a dare contro le guardie, e facciamo pure bene, perché non è giusto quello che subiamo, non è giusto, non è proprio giusto. Italia, chi è? E tu comunque sia, insomma, alla fine, così, ricapitolando, ci dice che quindi comunque sia ci sono due ragazzi che si sono impiccati a Ponte Galeria, questo è quello, sì, che tu puoi dirci come testimonianza diretta. Poi io sottoscritto in diretta da Ponte Galeria dichiaro, un nostro compagno, mi sa che questa sera verso mezzanotte e 13, un nostro compagno, io mi auguro il Signore Gesù Cristo, che almeno lui ci assista, non ci ha lasciato, perché io l'ho visto e ti giuro sulla tomba di mia nonna che ho sepolto ieri a mezzogiorno, che ho visto passare questo ragazzo con la corda al collo e con la bava alla bocca. Per te è normale questo, sì o no? No, chiaramente no, questa è una cosa grave quella che ci dici e noi quindi la riferiamo e quindi per qualsiasi cosa, ti ripeto, il numero ce l'hai e ci puoi tornare a chiamare per darci novità sulla situazione lì a Ponte Galeria, d'accordo? Ti passo un altro compagno che è un signore un po' più grande di me, di una certa età, guarda, parla con lui. Buonasera signor. Buonasera. No, ma sono rappresentante delle ragazze del colore qua. Cioè, veramente quello che stiamo vivendo qua è molto pericoloso, non lo so, perché anche la schiavitù, pensa che 500 anni fa le gente non ha mai visto questa peggio che stiamo vivendo qua. Sicuramente, sappiamo purtroppo cos'è un CIE, sappiamo poi in particolare, essendo una radio romana, cos'è Ponte Galeria, quindi... Se non lasciano anche entrare i giornalisti qua per vedere come stiamo vivendo qua, questa non è più, non è più della schiavitù. È iniziata questa manifestazione ormai da un paio di ore e qui davanti alla base militare, la più grande base militare di Tel Aviv, la manifestazione di un paio di migliaia di persone. un paio di migliaia di persone che davanti alla base militare di Tel Aviv, nel centro della città, una manifestazione organizzata dalla società civile, ci sono tantissimi giovani ma anche anziani qua di Israele dopo l'accaduto di questa mattina all'alba sulle navi della Freedom Gaza. La gente qui è tantissima, sta protestando appunto proprio davanti a questa base militare, sta protestando contro quello che sta facendo, che ha fatto e che sta continuando a fare le forze di cosiddette di difesa israeliane. Oggi questa mattina tra l'altro siamo andati lì a Ashdod, al punto del porto dove appunto hanno allestito per i passeggeri delle navi, hanno allestito un centro di detenzione, loro lo chiamano di accoglienza e di cura per i passeggeri che tra l'altro ancora diciamo in parte devono arrivare, perché fino a qualche ora fa erano arrivate soltanto tre navi più piccole che non trasportavano molti passeggeri, credo una trentina in tutto, che sono stati appunto, da quanto ci risulta, da quanto abbiamo appreso dalle varie interviste che abbiamo fatto anche ai portavoce militari dell'IDF, si sono tutti quanti rifiutati di firmare il foglio di espulsione da Israele, quindi sono in questo momento detenuti, si può dire. Stavano aspettando la grossa nave che ancora era alla della costa di Ashdod, l'avrebbero fatto raggiungere il porto entro questa sera, probabilmente appunto già in queste ore sta arrivando, ma più tardi c'era una conferenza stampa alle 7 che però appunto ci siamo persi. Senti, ma in questo momento c'è. Mi senti? Chiaramente qui siamo circondati dalla polizia e la polizia sta cercando di mandare via anche la gente. Mi senti? Qui tra l'altro è un continuo andirivieni di popolazione, di gente insomma che sta arrivando appunto davanti a questa grossa base militare. Pronto? Dicevo appunto la nave turca che ancora sta galleggiando nelle acque, dovrebbe arrivare adesso insomma in queste ore, doveva la facevano attraccare al porto, tra l'altro con dentro ancora i feriti e tutto il resto, insomma tutto quello che è successo durante l'attacco notturno. E chiaramente la posizione dell'IDF sta completamente ribaltando la situazione, addirittura si stanno inventando che sono stati i passeggeri di questa nave ad attaccare i militari mentre scendevano dall'elicottero per fare l'abbordamento della nave, e sono stati colpiti da pugnali e bastoni dai passeggeri appunto della nave turca. Per questo motivo hanno sparato. Il numero che loro indicano è di 9 morti e molti feriti tra le forze israeliane. Queste sono le loro dichiarazioni ufficiali al momento. Scusa, ma no, indicano dalle agenzie i morti sono solo tra i pacifisti, non sono tra gli israeliani. Sì, sono 9, però invece che 16 come erano stati. No, anche le agenzie dicono 19, però, quindi forse non si sono messi d'accordo sulla versione, come raccontare. Ma sicuramente dire... non si sono messi d'accordo sulle versioni perché sono veramente scandalosi. Insomma, ho avuto la possibilità di parlare con diversi portavoce sia del Ministero degli Esteri sia appunto dell'IDF e anche molti altri, insomma ognuno dà una propria versione. Tra l'altro hanno molto l'interesse a far vedere quello che loro hanno che è successo realmente nella nave, facendo vedere delle immagini dove chiaramente non si capisce assolutamente niente, dove si vedono soltanto i soldati che scendono giù e loro li raffigurano, li cerchiano come se fossero appunto stati attaccati da questi passeggeri. In realtà insomma si vede soltanto questi soldati che hanno le armi in mano, che sono approdati sulla barca e basta, insomma chiaramente così è una modalità tutta loro di leggere, di dare, no, l'informazione rispetto a quello che è successo. Inoltre oggi c'era anche questa manifestazione contro, cioè in appoggio all'AIDS, quindi c'erano questi, si può dire, un centinaio di fascistoni, di fascisti, coloni e quant'altro, che sbraitavano nei confronti di tutti. Insomma, tra l'altro ci hanno anche attaccato, hanno attaccato i giornalisti, c'erano i giornalisti di Al Jazeera e delle altre TV internazionali, appunto appostati su questa collinetta di fronte al porto di Ashdod. Sono stati attaccati, chiaramente l'esercito e la polizia che era lì presente non ha fatto niente, così come hanno attaccato anche molte altre persone che non assomigliavano a loro. Quindi so, direi una manifestazione veramente xenofoba, che al grido di arabi tutti morti, vi vogliamo tutti morti, insomma sono andati avanti per diverse ore. E già che c'erano ammazzati anche altri. Aggiungo che in questo momento a fianco a noi, dall'altra parte della strada, quindi a pochissimi metri, ci sta un altro gruppuscolo di questi oltranzisti, insomma coloni, che stanno lì anche loro con un po' di cartelle a sbraitare contro invece questa manifestazione che si sta tenendo qua in questo momento. Ecco, fai attenzione, perché di solito questi fascisti israeliani girano armati, se non sbaglio. Ah sì, in genere i coloni girano armati, certo, senza ritegno, quindi vabbè, comunque loro, la loro posizione è: gli arabi ci stanno ammazzando, non li vogliamo dentro la nostra città, sono dei violenti e dei terroristi, e quindi non li vogliamo dentro il nostro paese, devono uscire, questa è la loro posizione. Sì. E poi chiaramente la loro risposta appunto è quella che devono ammazzare tutti gli arabi, quindi insomma hanno le idee un po' confuse su come si potrebbe convivere o quant'altro. Vabbè, le reazioni internazionali immagino avrai letto anche tu, insomma brilla il silenzio. Scusa? Dico, le reazioni internazionali brillano per diciamo l'appoggio esplicito a Israele, oltre agli Stati Uniti anche il governo italiano, che è quello che chiede chiarimenti invece di condannare questo atto. Pronto? Di... Pronto? Non mi senti? Pronto? Non, pronto? Non mi senti più? Sì, ecco, ti sento. No, dicevo, le reazioni internazionali, diciamo molti paesi hanno protestato con una certa forza, sì, a differenza degli Stati Uniti, e questo è comprensibile, che invece non, ovviamente non condanna Israele, ma anche l'Italia non condanna Israele, vuole chiarimenti, cioè di fronte a un atto di terrorismo, sì, internazionale, non così... Non sento così, più, quindi non ho, vabbè, capito che cosa mi stai chiedendo. Senti, allora... Comunque, chiaramente sì, abbiamo sentito delle condanne che ci sono state di tutto il mondo arabo, immagino anche di alcuni paesi dell'Unione Europea, chiaramente insomma anche la protesta che c'è qui davanti, gli israeliani, quindi chiaramente chiedono che venga fatta un'azione molto molto forte nei confronti di Israele. La prima che chiedono chiaramente un boicottaggio totale da parte della comunità internazionale, anche loro sostengono appunto che fino a che non si boicotta Israele completamente, in tutte le forze, le forme, l'appoggio economico che si dà di Israele, chiaramente questa situazione non potrà mai terminare. Quindi questa è un po' la parola d'ordine principale che arriva, che cercano di far sentire alla comunità internazionale, anche gli israeliani qui a Tel Aviv. Pronto? Pronto? Sì, scusate, ma qui la linea viene... No, vabbè, dicevo, ci lasciamo per ora e magari ti richiamiamo più tardi. Sì, va bene, qui io credo che andrà avanti ancora un po', insomma, perché vedo che c'è gente che va e viene in continuazione, la strada qui è tutta completamente piena, siamo circondati da tutta la polizia e poi insomma, siamo davanti alla base militare più grossa di Tel Aviv, quindi cioè, abbiamo l'esercito, insomma, qua proprio qui davanti al completo, armato di tutto punto. Magari sentiamoci più tardi. Noi tra l'altro avevamo intenzione comunque di ritornare fra un po' di ritornare giù nella postazione di Ashdod, appunto per vedere se ci sono ulteriori cambiamenti, se sono arrivate le barche, che tra l'altro appunto ripeto ci sono due barche di cui non sappiamo ancora che fine hanno fatto, non ci sono i contatti anche da Gaza, non si riesce a capire che cosa sta succedendo, non riescono ad avere contatti con queste altre c'è stato l'oscuramento di tutti. Ci sono state tantissime manifestazioni, lo ricordo, in tutti i territori palestinesi, quindi non soltanto qui a Tel Aviv ma anche a Gerusalemme, in tutta la West Bank la gente è ancora in strada per questo motivo, così come anche nei territori del... Bene. Mi manda in diretta il slogan. Sì. Allora, diciamo che ovviamente come sentite la piazza è molto viva, il corteo è molto riuscito, ci sta insomma svariate persone, mo non so se 1000, 2000, 3000, non voglio far numeri. Bene, però nutrita. Diciamo che è nutrita, abbastanza piena di contenuti e ovviamente di slogan. Si sta ricordando anche tutta la campagna di boicottaggio, che è una campagna internazionale, BDS Movement, lo trovate sul sito cioè bdsmovement.org, proprio sul boicottaggio dei prodotti israeliani che l'economia di apartheid e di guerra. Pensiamo alla pasta, pensiamo alla Carmela Greco, quella che ha fatto scatenare insomma tutte le polemiche con la Coop, perché prodotti fatti in colonie illegali senza neanche il marchio. Pensiamo alla CTS, gli studenti viaggiano tramite il CTS fa continuamente accordi turistici con il ministro del turismo israeliano per far vedere le bellezze di Israele, non li porta mai a vedere come muoiono i palestinesi a Gaza o come vengono circondati dal muro a Betlemme stessa, per non parlare delle altre città. Quindi diciamo, si continua a parlare appunto dei prodotti israeliani. Bene, allora se ci vuoi dire gli slogan, perché non si capisce niente, o gli striscioni che sono aperti. Non so se lo sentite, sì, ora si è capito. Parla ovviamente anche del fatto che dopo la questione della Coop, nonché quando si parla di boicottaggio nei confronti del governo israeliano, si parla sempre del fatto che si è antisemiti nei confronti del governo, ma non si è antisemiti nei confronti di un governo, si è antisionisti, un governo ovviamente sionista, certo, che pratica politiche razziste e di apartheid. Questa anche questione dell'antisemitismo che continuamente, diciamo così, i governi israeliani, ma soprattutto i nostri governanti, uno stesso Alemanno, nonché i governanti del nostro governo provenienti dai fasci vittori, si permettono di dire a chi propone un boicottaggio dei prodotti israeliani di essere antisemiti. Dovrebbero studiare innanzitutto la storia, ma per di più è anche una questione pericolosa, perché nei confronti della comunità ebraica rievocano momenti insomma non troppo piacevoli. Qui si parla, proprio perché noi non confondiamo, comunque non, la piazza non confonde la essere ebreo con appartenere a uno Stato o comunque essere governante di uno Stato sionista, che pratica una politica, la vediamo tutti i giorni, nonché in questi giorni, selettiva di uccisione nei confronti di determinate persone selezionate. Quindi la manifestazione ha questo ben chiaro, tanti cartelloni anche contro Obama, scritti in inglese ovviamente perché stiamo attraversando tutto il centro di Roma pieno di turisti. Obama dovrebbe investigare, comunque andare a controllare, a vedere quali sono i crimini di Israele adesso. Quindi tantissime bandiere palestinesi, c'è tutto, dalla comunità palestinese a diciamo così, ci sono i cittadini americani che vivono a Roma, che sono scesi in piazza, ai centri sociali ovviamente. e via dicendo. Rinnovo l'invito a tutte le persone che stanno ascoltando la radio a scendere in piazza, una manifestazione tranquillissima che vede insomma ampia partecipazione di tutte le età di persone, quindi venire qua è, insomma, è importante. Uno e qui non c'è di altre cose. E quindi 87.9, quando sono le 14.05 minuti primi, siamo riusciti a metterci in contatto con una compagna di Roma che si trova ad Ashdod. Ciao. Ciao. Allora, diciamo che ovviamente, insomma, io non so proprio non so da dove partire, un po' mi emoziona, insomma, a parte non allora, solo riuscire a parlare. Un attimo dove sono posizionata, così e vi faccio un attimo la descrizione. Infatti descrivi. Sono tutte, sono qui a Ashdod, nel porto di Ashdod, dove è prevista diciamo l'entrata scortata delle barche che sono state, delle navi che sono state assaltate durante la notte a largo nelle acque internazionali, e quindi e sono adesso diciamo non tutte, ma state portate, alcune sono state portate qui verso il porto per essere dove verranno poi presi tutti i passeggeri delle barche. Ancora quello che non abbiamo chiarissimo, non so poi se avete anche altre indicazioni, è che per il momento sia i morti che i feriti dell'altra barca non sono stati portati da nessuna parte, sono sulla nave praticamente. Non so se pronto? Pronto? Sì, ci siamo. Pronto, Mari, scusaci. Vai. Sì, dicevi dei morti e dei feriti. Questa pronto, sì, mi sentite? Sì, ti sentiamo benissimo. Ah, ok. Noi ti sentiamo benissimo, non ti preoccupare. Dicevo, non so se voi avete già altre indicazioni, perché io nel momento in cui mi stavo spostando, eccetera, e non hanno ancora fatto scendere nessuno praticamente dalle barche. E delle 8 che erano in passaggio, 2 ancora non risultano essere arrivate o essere state scortate qui nelle acque di Ashdod. E poi per quanto riguarda adesso qui davanti, lo scenario che ci abbiamo qui davanti sono queste infinità di barche, tra quelle appunto dirottate e i dirottatori praticamente, cioè le barche israeliane della Marina, dove qui a Ashdod praticamente le hanno schierate bene bene, dove c'è, vabbè, a parte dentro la città, insomma, è un pollulare di polizia e esercito, ma anche qui intorno, proprio qui sopra le acque, insomma, è completamente circondato, il porto è chiuso, eccetera eccetera. Senti, qual è stata la reazione ovviamente della popolazione? Tu sai di notizie di quello che sta succedendo a Gaza, sento, piuttosto che nella West Bank? Sappiamo dei scatti. Non vi sento. Allora, ovviamente i telefoni sono così. La reazione della popolazione nella West Bank e a Gaza? Vabbè, non vi sento niente, ho capito solo popolazione. Allora, quello che abbiamo visto, tra l'altro, in quasi tutte le città, io vengo in questo momento, stavo a Nablus e poi, vabbè, i vari giri che abbiamo fatto, che ho fatto, ci stanno organizzando da tutte le parti, in tutte le città, le manifestazioni, sia nelle città dei territori palestinesi occupati, sia nelle città del 48, dove sapete, insomma, ci sono state appunto anche persone di lì dentro che sono state uccise durante questo assalto della Marina israeliana. E quindi ecco, ci sono già in corso direi decine e decine di manifestazioni un po' da tutte le parti, da questa notte, da quando è successo, da quando si è avuta la prima notizia, che praticamente tutti quanti i media stanno parlando, insomma, di quello che sta succedendo, quindi stanno coprendo tutto quello che sta succedendo. La gente è uscita in strada, adesso c'era arrivata anche la notizia da Haifa, dove appunto dovrebbe arrivare la prima barca, quella assaltata, dove dentro ci sono stati le decine di morti dopo, subito dopo l'attacco, e dovrebbe arrivare lì, e lì già anche la gente è scesa, insomma, a fare delle manifestazioni, così anche a Gerusalemme, così a Nablus, così adesso l'abbiamo lasciata anche a Betlemme, eccetera eccetera, insomma in tutte quante le città. Ora qui quello che volevamo vedere qua più che altro era questo centro di detenzione che questi hanno preparato per lo sapevate, no? Già da prima, insomma, avevano preparato un centro di detenzione per ospitare immediatamente i passeggeri delle barche. Non si riesce però per il momento, chiaramente non c'è nessuna indicazione, insomma, tutti i giornalisti che ci stanno sono appostati così in alto su una collina che dà sul mare. Noi in questo momento siamo davanti alla spiaggia con queste barche che comunque stanno per il momento al largo, quindi non entrate in nessun porto, quindi non c'è per il momento nessun'altra operazione che si può capire dove stanno portando anche tutti questi passeggeri. Mi fate sentire? Sì, allora noi ci siamo, ti abbiamo sentito, ti sentiamo anche benissimo. Io direi che noi ci possiamo, a Roma, beh, ovviamente in tutta Italia tantissime sono le manifestazioni previste per oggi pomeriggio, così insomma penso che puoi portare la scesa in piazza di tutta le compagne e compagni d'Italia nei confronti ovviamente di quello che sta succedendo, soprattutto a fianco della popolazione palestinese. Noi ci potremmo risentire più tardi quando riusciamo almeno a capire ancora meglio cosa succederà. Quali sono le prossime mosse, ma soprattutto credo che sia il caso di monitorare queste due barche che mancano all'appello, quindi sono ancora in alto mare, vaganti nelle acque internazionali. Tra l'altro, appunto, in questo momento, insomma, non si hanno notizie da dentro, sono saltate i collegamenti con loro, con quella barca. Ormai più di 24 ore fa, insomma, quindi non si hanno notizie da parecchio tempo. Si parla anche del ferimento di questo rappresentante, insomma, della lotta contro le occupazioni delle case, questo arabo israeliano di Gerusalemme. Sì. Calcola che ci sono tantissimi rappresentanti della Knesset, tra l'altro appunto anche questo arabo, lui mi sembra che, non mi ricordo se è di Haifa o di Nazareth, un rappresentante insomma del 48. Poi ci sono questi, c'era il premio Nobel, vabbè, insomma, tutte le personalità che erano state raccolte tra i 700 passeggeri della barca, della nave, insomma, di quella maggiore, insomma, turca che era partita con le tonnellate di aiuti umanitari per Gaza. Va bene. Quindi vabbè, insomma, queste sono per il momento queste prime notizie, ripeto, anche se qui i media la televisione sta mandando a ripetizione tutte le informazioni che stanno arrivando. Gaza chiaramente ci sono manifestazioni molto grosse, Erez l'hanno bloccata immediatamente già da questa notte, e tutti l'entrata e l'uscita dei passaggi del checkpoint di Erez, quindi è stato detto chiaramente a tutti di non uscire dalle case, oppure gli internazionali chiaramente evacuati, e comunque di non uscire dalle case. Sono state date queste indicazioni per chi sta lavorando anche dentro Gaza con la popolazione civile. Immagino insomma che anche dopo questo attacco anche la situazione internazionale, un minimo l'assetto politico lo cambierà. Scusa? No, vabbè, immagino insomma che dopo questo attacco la situazione internazionale è un po' nello scenario. Politico cambia. È allucinante che quello che è successo, io non ho parole. Non so che come possa cambiare, non so neanche in questo momento, non so che cosa stanno dicendo appunto tutti gli ord, a parte questi arabi che ascoltiamo in continuazione, non so quelli internazionali quale sia la posizione, non ho avuto il tempo di leggerla e di sentirla, insomma, ma veramente, diciamo che diverse nazioni hanno ritirato i propri ambasciatori, chiuso l'ambasciata a Istanbul, non so poi che altro, insomma. No, diverse nazioni hanno ritirato gli ambasciatori a Tel Aviv. Ok.

lasciando il mare. Così stanno uccidendo il mare. Così stanno umiliando il mare. Così stanno spiegando il mare.